pensieri, dove sono nato. Riportami a casa, non lasciarmi solo in questo rumore di silenzio solido, in questi suoni d'acciaio, di volti e parole che non conosco. Controllati, controllati, lascia tutto come hai trovato. Non rimettere a caso quella polvere in volo dentro questo odore di silenzio umido, di fiato e denti a ridere, volti e parole che non capisco. Sono un'ancora gettata in cielo, sono un'ancora gettata in cielo, sono un'ancora gettata in cielo, sono un'ancora gettata in cielo, una mano con un dito solo, una mano con un dito solo, una mano con un dito solo, che non può prendere, che non sa stringere, che non cattura la realtà, che non può prendere, che non sa stringere, che non cattura la realtà.